魂込めた一人の男が今日も行く真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。カラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。セガタサンシロ、セガタサンシロ、セガサタンシロ。 Jazz at Radio Cast, Rimini 2013. In questa puntata volevamo parlarvi di un E3 con Phantasy Star, Yakuza e Sekatsugu, ma no. Quindi ci abbiamo visto Sonic Lost World e il livello dei gelati ci ha talmente fatto venire voglia che siamo venuti a Rimini e in una improbabile balera abbiamo anche ritrovato il papà di Jazz at Radio Cast, Schubert. Bentornati a tutti e benvenuti alla 13ª puntata di Jazz at Radio Cast. Lascio a te fare gli onori della casa. Qui con noi c'è Sciarcone direttamente da Sega World Italia. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Whispig direttamente dall'8ª puntata di Jazz at Radio Cast su Virtua Fighter 5 Final Showdown. Buondì a tutti. Mana direttamente da Retro G Fields. Salve a tutti ragazzi, ciao! Blazor direttamente da il forum. Ciao. E manca Ventu, dove è finito? Sei imboscato col 3DS. Ciao Ventuzzo. Bella. Giocatore di... Allora niente, dedicheremo questa puntata di Jet Set Radio Cast agli arcade. In particolar modo osservanti speciali sono Operation Ghost, che andremo ora a giocare, e soprattutto Dream Riders, che è l'ultima novità, è l'ultimo che è uscito, prodotto da Sega Amusement. Cosa sono, inglesi? Europa. Europei, quindi sarà un gioco di merda. Dopo provare. Game Wax. Gli sviluppatori di Dream Riders. Sì. Ah. Gli sviluppatori di Dream Riders sono Game Wax. Ah, Game Wax. Game Wax. E chi sono? Hanno fatto Walkie Racer. Sono quelli che hanno fatto Walkie Racer. Ah, bello. Walkie Racer, non sì. Lo so, non ci ho giocato. È il primo gioco che hanno fatto ed è bello. Dai, volontari, che dobbiamo giocare a Operation Ghost. Servono i gettoni per giocare, ragazzi. Davvero? Avvicinatevi allora, alla cassa. Comprare. Questo o quello prima, non mi ricordo. Vabbè, intanto che cambiano i gettoni, presentiamo Operation Ghost, che è praticamente il seguito di Ghost Squad, apparso anche su Wii. Ce l'avevi Wiz, Ghost Squad? Non posso dire di averlo giocato, no. Mannaggia. E niente, praticamente il cabinato c'ha i pistoloni di Rambo, che sono quelli di Rambo, a cui hanno aggiunto due mirini finti che fungono da microfono. E alla postazione blu abbiamo Milo. Sto inserendo il gettone. Inserendo i gettoni. Gioco consigliato ai giocatori di tutte le età, quindi anche a me. L'inserimento del gettone è un gesto ormai anacronistico. Dovresti far sentire il rumore. Ah, giusto, è vero. Inserite altri gettoni. Imbracciato il pistolone da 1,5 kg. Ricordiamo che ha lo switch come Ghost Squad per cambiare il volume di fuoco, il ratio di fuoco. Iniziamo. Missione 1, c'è un treno. Ah, il cabinato dovrebbe avere dei LED qua ai lati che vanno a inquadrare i bersagli più pericolosi. Adesso vediamo se funziona. La trama non me la ricordo, comunque c'è la Ghost Squad che è tornata su un treno per fermare un tizio con un coltello. Sentiamo rumore di gioco. La grafica sembrava peggiore su YouTube. Sì, non è male dal vivo. Tutto sommato dal vivo non è male. Poi c'è il solito mirino a schermo che c'era anche in Ghost Squad. I nemici hanno un counter sopra la testa che indica quando faranno fuoco. Poi qua ci sono anche delle scatolette che sono molto più difficili da prendere di quelle di Ghost Squad. Un commento, qui. Beh, sembra bello, dai. Sì? Sì. Lo giocherai dopo o no? Certo, per provare. No, è bello. Volentieri. Col pulsante giallo si possono effettuare delle azioni contestuali, tipo che loro non hanno fatto in questo momento per indietreggiare, che non mi ricordo dov'è il pulsante. Ma il pulsante giallo dov'è? No, ha indicato giallo a schermo lì. Ah, okay. Dovrebbe essere. Ok, adesso qui c'è una specie di mini missione, bisogna colpire con un colpo solo il boss che tiene in ostaggio un salaryman giapponese probabilmente. Ecco, ha sbarrato da tutt'altra parte e ha fallito miseramente questa missione. Ma neanche ci è andato vicino proprio. Adesso siamo a bordo di un elicottero, dobbiamo sparare all'interno del treno. Qua c'è la mitragliatrice automatica. Dovrebbe avere anche i colpi infiniti, anche se Ciarcone ha cercato di ricaricare. E niente, poi c'è il sistema punteggio che praticamente premia gli abbattimenti veloci, i colpi alla testa, e poi ci sono le combo che se beccate i nemici di fila fa più punti. Giusto? Lo dico io. Ci fidiamo solo. Ci fidiamo. Ecco, è arrivato il boss che indossa una maschera antigas, un giubbotto. Basta per renderla invincibile. Esatto. Bisogna colpire il braccio prima che colpisca il giocatore. Lancia coltelli dal fumo. Commenti. Spettacolo. Spettacolo. Sì, la prima volta. Piace? Non l'avevo. È bellino. Devo giocare oggi per la prima volta. Poi vedi LED, in realtà dovrebbero indicare qualcosa di utile, ma non riesci a vederli mentre sì, giochi. No. Hanno perso. Vabbè, ragazzi, questi erano i nostri. Non sono riusciti a sconfiggere il primo mostro. Però continuano. Si è distratto! Ottimo! Sembra veramente veramente bello, molto molto tattico e molto molto frenetico e tattico allo stesso tempo. Veramente un ottimo titolo. Questo chi è che l'ha fatto, che non mi ricordo? L'ha fatto qualche AM, no? AM2, sì, allora è bellissimo a prescindere. Certo. Il primo boss è stato sconfitto. Adesso dirà una frase. Si è lanciato dal treno per salire su un elicottero a cui la Ghost Squad non spara perché hanno finito i colpi probabilmente. Ghost, so they are really back. Che ne pensi, Emilio? Ti piace? Era la prima volta che ci giocavi? Sì, è la prima volta che lo vedevo e per il momento mi ha sorpreso la grafica migliore del previsto e il primo livello mi sembra buono. Per il resto, il ratio di fuoco continua, non esiste. Come non esiste? Non esiste. Puoi mettere cioè, colpo singolo o colpo triplo. Sì. Però non. Ah no, continuo te lo dà solo. Te lo dà solo, esatto. quando lo prevede il gioco. Poi alla fine di ogni livello ci sono probabilmente i soldi, la schermata del punteggio. Purtroppo non è più presente la parte delle card con cui salvare i progressi. Infatti il gioco l'hanno fatto abbastanza lungo, se non sbaglio sono 5 livelli. Io l'ho finito spendendo una mezzo stipendio la prima volta che ci ho giocato. Alpha Soul Focus is S&D. You know the drill. ETA 2 minutes. Don't leave any trace behind. We are the ghost. Yeah. Yeah. Tipo lancerà. Questo ricorda il Menacer per Mega Drive. Sì, infatti ora finirai le pile e devi comprarle presso la cassa. Ok, la seconda missione, siamo in un palazzo. Guarda, c'è la valigetta! Là, vedete la valigetta? Tra l'altro la valigetta è antiproiettile perché servono più colpi per distruggerla. Abbastanza difficile. Colpiteli alla testa per fare dei bonus. Avete schiacciato? Sì, ho lanciato perfetto. Una granata. Sì, probabilmente quando appaiono delle indicazioni a schermo premendo il pulsante azione vengono fatte delle azioni. Valigetta che è rimasta lì, l'ha aperta e conteneva. Non si è capito. Comunque avete anche dei colpi automatici ora, si vede che li avete sbloccati. Emilio ha un giubbotto antiproiettile che comunque non lo renderà più forte a Virtua Tennis. Hai già finito i colpi automatici? Sì, sono pochini, infatti ovviamente sparandogli alla testa vanno giù più velocemente, come è giusto che sia. Qui c'è la modalità notturna. Il gioco sembra appassionare perché Milo inserisce gettoni su gettoni. Fa bene perché è bello. Poi probabilmente dovremmo aspettare un anno per rigiocarci. Cosa dici? Sembrava che aveva frizzato, invece stava caricando. No, i nostri non frizzano mai. No. Tra l'altro molto spesso il gioco in automatico lancia questa specie di scanner, giusto? Che probabilmente permette di vedere le sagome dei nemici anche dietro gli ostacoli. È fatto in automatico, però rende buono l'effetto. Sì. Ma non è continuo, lo fa tipo ad ondate, come se fosse un radar. Sono una cosa utile per il giocatore attento, perché così può capire in anticipo la posizione dei nemici, ricordarsela per quando entrerà nella stanza. Esatto. E fare più punti. Esatto. Figata, eh? Eh? Cosa hai detto? No, che c'è una bella varietà di situazioni, anche dei bei tocchi qua e là, dico. Ok, qua c'è la specialità dei nostri giocatori, che è il cecchinaggio. Colpo buono. Un nemico particolarmente ostico continua a muoversi avanti e indietro. Fallita, però primo tentativo. Qua c'è una situazione un po' critica. Tra l'altro c'è un ottimo due crediti per giocare, un credito per continuare, che non è male. No. Eh? No. Come no? Ah. No, no. Ho detto una cazzata. No, bisogna... Allora c'era scritto un credito continuo, però erano due gettoni, sì, no. Certo. Buono, per esempio in questo caso c'era da attivare una. Cos'è? Una booby trap? No. C4 dietro un muro nel momento giusto per ammazzare quelli che passavano di lì, insomma. C'è una. In questo gioco le cassette sono veramente nascoste in modo devastante. È una cosa bella che le cassette siano belle nascoste, perché ti obbliga a guardare qualsiasi angolo per sfruttare questi bonus. Bisognerebbe capire se il LED hanno qualcosa. Non riesco a. Ah, qua c'è il secondo boss che ha uno scudo antisommossa con la pin-up. Capolavoro, capolavoro. Lancia delle granate in modo vigliacco da dietro lo scudo. No, ma in teoria potresti anche distruggergli lo scudo, però devi vedere. Sì, sì, sì. Seconda fase del boss, che in cui tira più granate di prima. Ecco, qua invece col tasto azione bisogna schivare quando ci carica con una spallata. Anche lì va fatto nel momento giusto, perché se non riesci a farlo, dopo hai meno tempo per sparargli prima che ti colpisca lui. Lancia granate come fossero grappoli di uva. Commento a caldo. È molto bello. Mi piace per il momento più di Ghost Squad, che già ho apprezzato parecchio. Sì, ti piace più questo di Ghost Squad? Sì, mi ha sorpreso positivamente, perché mi aspettavo un gioco magari non all'altezza del precedente, invece secondo me lo migliora in alcuni aspetti. No, è bello, è bello. Cioè, magari sulla longevità perdo un attimino, perché non manca tutte quelle sbloccabili e variante che aveva Ghost Squad. Qua è tutto. Sì, però ho giocato comunque in sala giochi, considerando che da noi le card non si trovano. Esatto, abbiamo provato a cercare anche quelle della Feiloli senza successo. No, che poi magari ce l'hanno tipo dietro il bancone, ma non sanno come funzionano. No, come a me è capitato. Non le distribuiscono, perché da noi non ci sono giocatori appassionati che seguono. No, da noi non Ghost Squad non aveva proprio le card di default. Ah, non l'aveva? Mi pare che non l'avesse. Io l'ho visto con. Però non aveva. Cioè non potevi. Ti diceva a schermo che era vuoto. Niente, l'ultima granata viene sempre a colpire. Anche lì devi ricaricare al momento giusto. Ti arriva la rosa di granate da questo boss, se non hai il caricatore intero non riesci a distruggerlo. Ma è un aspetto comunque positivo, perché. Ti porta a conservare tatticamente il caricatore per il momento, certo, in cui te lo lanceranno. Ecco, perfetto, sono riusciti a farlo una volta, good, perché se lo fai troppo prima. Esatto, lo devi fare col giusto tempismo. Anche questo è un aspetto. Il boss sta per morire. Ah. No, non potete. No, Blazor deve riuscire a farlo. È tutto in mano sua, è il destino della squadra Ghost. Senza aver visto il tutorial. Che almeno rivediamo la schermata dei punteggi e vediamo che cosa dice, non mi ricordo. Ecco, il boss sta per cadere, ottimo, great. Infatti ora il nemico viene inquadrato di spalle e si può abbattere più. Non gli puoi sparare più. Questo è per cambiare. La terza missione è ambientata su una nave cargo. Già le braccia da solo, se un giocatore con un credito arrivava fino qua. Our objective is to gain control of the enemy ship. Beh, facile. Nel secondo livello il boss era uno con la cresta punk, adesso abbiamo un rastafariano nel terzo livello. Vabbè, lo stile è sempre quello di AM2, eccezionale. Per ora ha sorpreso positivamente. Sì, non l'avevi mai giocato neanche tu? Sì, purtroppo non l'avevo ancora mai visto dal vivo. Diciamo che è molto bello perché inizialmente sembrava un gioco sempre fatto da M2, quindi con un certo criterio, un certo stile, però un po' povero sul profilo tecnico e che puntava tutto solo sul cabinato. Invece, al di là di quello che avevamo visto dai video, dai trailer, diciamo che il gioco vero e proprio c'è. Poi anche il cabinato fa il resto, però diciamo è più il gioco con la parte strategica, la selezione delle armi, le varie missioni, che fa il... Okay. Bello, no, sono contento che vi sia piaciuto perché io l'avevo già giocato e volevo sentire anche una vostra opinione. Possiamo parlare di Virtua Tennis 4? Dai, va bene. Tanto lasciamo qua il gruppo, la squadra Ghost al loro destino, che già possiamo immaginare quale sarà. Questo qui è... Che cabinato è? Non l'ho mai visto questo tipo qua. È il cabinato standard. Sì, è il cabinato nuovo, sì, a forma di iPhone. Sì, esatto, queste linee che ricordano un po' la nuova moda della tecnologia. Infatti adesso proverò per la prima volta Virtua Tennis 4, che non l'ho mai provato perché sinceramente... Non so, avevo questa idea che fosse brutto senza averlo mai provato... Non so per quale motivo in realtà. No, in realtà è migliore del terzo episodio. È uscito originariamente su console e poi convertito successivamente per arcade. Ma... Su che scheda gira? Sì, comunque è una Ring. Io direi di provarlo, facciamo subito una sfida. Come dicevo, non l'avevo mai provato Virtua Tennis 4 perché me l'ero perso l'uscita, poi lo davano in bundle con il Move e quindi pensavo fosse un gioco da Move e non avevo preso. Invece mi dice Milo che è bello. Sì, in realtà inizialmente era stato pensato per il Move, poi è diventato multipiattaforma e il Move è relegato esclusivamente ad una modalità specifica. E le modalità principali non sono in alcun modo giocabili col Move, solo con il pad. Bene, questo quindi non può che farci piacere. Sono ritornati sul loro passo. Dai, allora io faccio una sfida. Commenta tu. Vai, bella. Facciamo tipo telecronaca, gentili spettatori. Abbiamo 3 credits per qualche motivo, non lo so. Forse c'era qualcuno che si era dimenticato di giocare. Questo in realtà dovrebbe essere un cabinato da 4, però non mettono mai. Però non è mai da 4, sì, non l'ho mai visto con il player 3-4, che tra l'altro starebbero scomodissimi. Giocheresti. Cosa facciamo, le donnette? Va bene. Io prenderei la Sharapova. Andiamo sul classico. Che viene indicata come gran colpo. Lei invece ha un rovescio potente, dopo che beve, ha un getto praticamente. getto di fuoco. Ah, e qua i tasti, cos'è? Top speed, slice. Tasti, leggiamo le istruzioni. Milo mi ha detto istruzioni che c'è viventi, cioè. Esatto, dovrebbe essere questo. Milo mi ha detto che c'è un trucco per fare una mossa fortissima. Io lo conosco. È una modalità, cioè una caratteristica nuova di Virtua Tennis 4. Colpendo in maniera coerente col proprio personaggio, per esempio se il personaggio che sto usando io ha il rovescio potente, se colpisci di rovescio si carica progressivamente una barra che una volta piena permette di eseguire un colpo speciale tramite l'apposito pulsante che penso sia quello in basso a sinistra. Tra l'altro noto che c'è un effetto di sudore dei personaggi che probabilmente soprattutto sui personaggi femminili è abbastanza inquietante. È una caratteristica nuova anche questa di Virtua Tennis 4. E anche l'occhio vuole la sua parte. Ho perso il primo game. Dove il quarto capitolo perde rispetto ai precedenti episodi della saga sono le musiche che sono parecchio anonime. Vabbè, in questo momento si sentono male. Però avendolo giocato tanto su console posso dire che sono abbastanza anonime. E perché non diciamo hanno... invece come modalità di gioco rispetto al 3, al 2, al 3, al 2 quale consiglieresti? È in versione console intendi? In versione console. In versione console hanno fatto una nuova modalità tipo gioco dell'oca. Che ravviva un po' la ormai stanca carriera di Virtua Tennis senza convincere del tutto perché dicevo senza sentito perché sta cercando di giocare stiamo cercando infatti di imparare confondendo i giocatori boss, più bravi c'è chi è che c'è come boss alla fine? Ci sono King e Duke. Ah, okay. Mentre non c'è Queen, si chiamava. Insomma, la boss femminile non c'è. È stata rimossa proprio perché l'occhio voleva sua parte. Hanno dovuto cercare di bilanciare. Hanno lasciato quei maledetti. Allora, io qua devo riuscire a recuperare. Ho già perso. Sì. Ma no! Vabbè, questa è la prima partita che facevo, quindi sono scusato. Ora farò la seconda e lo sconfiggerò. È un test di prova. Una caratteristica particolare dell'arcade è che è possibile selezionare la difficoltà tra 5 livelli, che è una cosa molto rara in sala giochi. Normalmente la difficoltà è di default, e probabilmente questa è una cosa che è rimasta dalla versione console. È una caratteristica approvata. Diciamo un lascito della versione console. Sì, è una caratteristica particolare che probabilmente è rimasta nella conversione da console ad arcade, che è piuttosto inusuale. Aspetta che c'era un commento importante di Ventu che diceva che ha fatto una buona scelta quella Ivanovic, una gran figa. Abbiamo avuto il supporto del commentatore tecnico. Esatto. Su Facebook vi consigliamo quindi di seguirla su Facebook. Vado sotto rete, lui tenterà. Ha scivolato il mio personaggio. Perché ha scivolato? Perché se cambi direzione improvvisamente nel 4 può scivolare e mettersi a sedere. Ah, quindi il mio gioco che facevo nel 2 che giravo come un pazzo non lo posso non più è fare. È possibile perché i personaggi adesso hanno un'inerzia. Per fortuna non come nel 3, non ci sono i tuffi esagerati che c'erano nel 3, ma si sbilanciano se ti muovi improvvisamente da un lato all'altro. E com'è sta cosa all'atto pratico? Funziona o...? Sì, funziona. Tra l'altro rispetto al 3 hanno abbassato nuovamente la velocità che è tornata simile ai primi due episodi. Basta. Cos'è, match point? Niente, ma fregato. E niente, l'esperienza ha pagato in questo caso a Virtua Fighter 6, no, Virtua Tennis 4 sono stato demolito due volte su due. Abbiamo avuto la possibilità di provare il super colpo. Ho provato a far nella prima partita si è caricato quasi interamente la barra, ma poi è finito il match. Adesso magari contro la CPU te lo faccio vedere. Niente, almeno ho avuto una rivincita, perché ieri a Virtua Tennis 2, il classico dei classici, ho vinto io. Poi abbiamo giocato a Sigarelli 3, ho vinto io. Ho vinto una lancia delta, quindi. Sì, buono. Che probabilmente Sigarelli 3 c'è, quella lì è la modalità classica che c'è solo nell'arcade, che è la pista di Sigarelli 1. Sì, è ispirata alla pista di Desert. Sì, Desert 95, se non sbaglio. Sì, bedem. Infatti si può scegliere la Selica e la lancia delta integrale. Io e Sciarcone abbiamo preso la lancia delta integrale, siamo arrivati primi e secondo, giusto? Confermiamo. Milo dal... Io sono un fedele della Toyota, quindi ho preso la Celica. E al grido di "io uso il cambio manuale" è arrivato ultimo. Però bisogna apprezzare lo sforzo. Sì, no, assolutamente. Esatto. Anch'io volevo usare il cambio manuale, ma poi per colpa degli altri pavidi non l'ho fatto. Ho seguito quindi la massa. Probabilmente Sigarelli 3 l'hanno sviluppato in parallelo con il Revo, no? Successivamente hanno rielaborato il Revo, hanno cambiato un pochino i drift delle curve. Piaciuto il Revo? Sì, il Revo sì, finito anche abbondantemente. Ciao, vediamo sto super colpo. Ma il super colpo cambia per ogni personaggio? Sì, in base, vedi, il mio personaggio ha rovescio potente, quindi bisogna eseguire colpi di rovescio per caricare la barra. Dipende proprio dal suo colpo. Sì, può essere il servizio, la corsa, colpi a rete. A seconda del tuo stile di gioco ti conviene prendere un personaggio che sia coerente, perché chiaramente se tu giochi molto a rete. Questo era un colpo potente, l'hai fatto? Sì, l'ho fatto perché evidentemente non è il tasto giusto. Cioè, stavo usando normalmente, se usi il tasto del colpo potente ti fa il colpo normale. Probabilmente dovrò, con sta storia dell'inciampo dovrò imparare a rigiocare da zero, perché lo rende... No, non è così diverso. Dovrei giocare ancora più di anticipo, penso, no? Rispetto al 2. Ma i meccanismi sono sempre gli stessi. Ti devi muovere in maniera magari più precisa. Non c'è più il tuffone del 3, mi dicevi. Sì, non c'è più il tuffone del 3. Ok ragazzi, è il momento, non fate finta di niente. Da quella parte, prego. Arriva il piatto forte della giornata. Ho dovuto insistere parecchio per riuscire a venire. Infatti metà di noi sono scappati. Sono rimasti solo Milo, Ventuzzo e Mana, che si accomodano ora alla postazione per provare il fantastico Dream Riders. Prego, prego, non fate complimenti. I gettoni li mando io. Sembra di vedere dei condannati sul patibolo. Milo prende postazione, prende posto sulla comoda postazione di Dream Riders. Poi il drago è figo, no? No, no, metteteli un po' di gettoni così continuate, che... Guardate che è bello! È veramente scomodo questo coso. Sei comodo? Sì. Scomodissimo. No, perché a casa tua non hai divani di plastica. A parte che mi sembra di essere un deficiente perché non tocco nemmeno terra con i piedi. Ma quella è una cosa voluta. Tipo infante. La cosa delle gambe a penzoloni ho letto che è voluta per rendere meglio. Per sentire più idiota. Ah ecco, qua è importante. Aspettate, non selezionate subito. Praticamente possiamo scegliere tra 6 livelli. Abbiamo il carrello sulla lava, l'acqua selvaggia, il canyon volante che ho provato io è una merda. Poi abbiamo una corsa in moto, il far west e la tempesta. Regole del selvaggio west. Ah, era il nome del livello. No. Ha subito disabilitato il movimento Milo, ma ora glielo riattiverò a tradimento. E praticamente Dream Riders è un rail shooter di quelli in cui l'azione continua ad andare avanti, e in questo caso siamo in questo far west con dei grattacieli sullo sfondo, un aereo ci sta lanciando dei bidoni per raccogliere punti, si trovano delle gemme o dei globi a seconda del livello. Sono già morti praticamente e ora li riabilito. Aumento. Facciamo ballare un po'. Cos'è sta roba? Qui c'è una tempesta, c'è un tifone che ci ricorda un po' 18 Wheeler. E praticamente stanno passando il tempo sparando a degli oggetti casuali che vengono lanciati verso lo schermo. Ma cos'è? Fa veramente schifo. Vabbè, disgustoso. No, allora, dovete spiegare. Lo shooter su binari più brutto di gran lunga mai visto, concepito da... Ma perché è così brutto? Provalo. Ok, adesso lo provo io. Vieni. Puoi parlare in prima persona. Vedi, il sogno è finito. Sì, il sogno per fortuna è finito. Sì, è veramente... È inutile. Confusionario. Brutto in ogni aspetto. Bravi Game Wax. Sogno finito, recita Dream Raiders al termine di ogni partita in modo un po' inquietante, e finisce qui anche questa puntata di Jets Radiocast dedicata alla dilogia riminese. Sicuramente avremmo potuto trattare meglio i titoli di cui abbiamo parlato, e mi scuso della incredibile serie di strafalcioni multilingua che sono riuscito a produrre, ma abbiamo registrato tutto in presa diretta e comunque penso che questa puntata rappresenti una sintesi della bella atmosfera che si è respirata durante il raduno di Sega World Italia, un weekend all'insegna del gioco arcade nelle sale giochi di Rimini. Nonostante Dream Raiders, noi non pensiamo che il sogno di Sega sia finito, e perciò vi do appuntamento alla prossima puntata di Jet Set Radio Cast con una traccia estiva di Jin Watanabe, composta per Monster World 4 ma non utilizzata nel gioco finito. Questa è Wonderful Southern Islands. Alla prossima. Che Dream Riders io non faccio in tempo. No, te ne scappi prima di provare Dream Riders, mannaggia. Vabbè, l'hai già provato. Posso fare il commento? L'hai provato ieri, dacci sì. Un commento di com'era. Ah, diciamo che il gioco tecnicamente ricorda i bei tempi del... non tanto bei tempi della prima PlayStation. quando c'è la prima, non della prima PlayStation. Un po' anche i giochi allegati con i cereali Frosties. Il cabinato che sembrava il piatto forte realizzato con una grossa spesa, in realtà come caratteristica, anche proprio come realizzato, come materiali, non ha niente a che vedere con i veri cabinati giapponesi di Sega. Ma tra l'altro non ho capito su che scheda gira, penso su un PC. Gira su Ring Wide. Ah, su Ring Wide gira? Sì. Che è Ring Wide, che in Giappone fa girare tipo gli Shining Force, quelle cose lì. Sì, ora quella ring, invece qua gira solo Dream Rider. Sì, sulla scheda bassa della ring. Sì. Ring Wide, sì, le ring edit sarebbe quella. Sì, sì. E da noi è arrivato solo Dream Riders, purtroppo. Sì, hanno fatto Dream Riders per voler risparmiare, però proprio si vede risparmio perché non si salva niente.